Elia Media. Hanno il tono attivato. Molti media c'hanno. Radio Elia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. Elia, Elia, Aelia, Elia, Lelia, Lelia, Lelia, Elia Media. Ciao! Ciao! Tu sei di Bologna? Ciao! Ciao! Quanto tempo state qua? No, da 4 anni. A casa in primo piano, vai. Allora, no, io... Ciao! Ciao! Ciao! Quanto tempo state qua? Da 4 anni. Quando uno parla di... Ciao! Nadavo! Ciao! Tu sei di Bologna? Secondo te, la radio può essere parte dell'arte contemporanea? Pido sagrias. Ostella con million. Ostella con million. Ostella con million. Ostella con million. Ostella million. Million. Ostella con million. La violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime. Aux étudiants qui sont jeunes, Il primo concetto che le viene in mente? L'Immacolata Concezione. Senti, come prima domanda, perché Santa Nasta? Tu sei di Bologna? E diceva poi papà, cosa devo fare? Hai gente che ha fame? Sì, sì, sì, sì. Grazie. Moi, je n'ai pas besoin du reçu. C'est pour vous? Oui. C'est obligatoire? Oui. D'accord. Quando finisce quello. Macchio. Leo. Che fate? Ci stai intervistando per qualcosa in particolare oppure è così perché eravamo pure a caso? Voglio tornare a camminare perché la strada mi chiocca quando dormendo accarezzo Elia Media. Hanno il tono attivato. Molti media c'hanno. Dal 15 di ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Puntoni. www.aeliamedia.org